si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti cari ascoltatori, quando sono le 7:34 minuti inizia una nuova mattina insieme, una nuova diretta di Si Può Fare, stiamo insieme fino alle 10. Un'occhiata tra poco ai giornali di oggi, quindi una veloce rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8, poi staremo insieme appunto fino alle 10 con i nostri approfondimenti. Parleremo, ve lo dico subito, partiamo dalla vicenda del panino, della schiscetta a scuola. Sono sempre di più le famiglie dei bambini che nelle scuole materne o nelle scuole elementari chiedono di portare il cibo da casa perché non possono permettersi magari il costo della mensa scolastica, oppure perché non approvano o non apprezzano il cibo che viene offerto nella scuola pubblica. E allora è un giusto diritto questo, oppure invece è un privilegio che rischia di discriminare gli altri bambini? Mettiamo che nella schiscetta ci sia caviale e salmone tutti i giorni, a parte gli scherzi, la scuola italiana non consente questa possibilità, però appunto a fronte delle richieste delle famiglie da Torino è partito un ricorso vinto da alcuni genitori e adesso sono in tanti i genitori in tutte le scuole italiane che chiedono di poter fare questo. Ne parliamo più avanti, adesso come detto iniziamo con i giornali di oggi. Vai, iniziamo. E allora, i giornali di oggi che si occupano della la coda di quella situazione in Europa che si è creata a Bratislava con questa specie di rottura tra Renzi e l'asse franco-tedesca, il nuovo vertice europeo senza Renzi, ma la Germania getta acqua sul fuoco, vedremo. Si trattava di un vertice previsto che viene fatto ogni anno e nel quale l'Italia non ha mai partecipato. Poi l'allarme del Presidente dell'Autorità Anticorruzione Cantone sul legame che c'è tra la corruzione negli Atenei e i giovani italiani che se ne vanno all'estero. Beh, mi sembra una scoperta dell'acqua calda questa di Cantone, meritoria, meritevole, per l'amor del cielo, ma insomma si poteva intuire che se i posti sono tutti presi dai figli dei baroni è chiaro che cosa resta da fare ai giovani ricercatori italiani: o cambiare mestiere o cambiare paese. E poi insomma anche altre notizie in ordine sparso, la Siria, la revisione dei dati sul PIL sui giornali di oggi, ma cominciamo con la questione europea. Titolo del Corriere: Unione Europea, nuovo scontro, l'ira di Renzi, rottura profonda. Stessa solfa per Repubblica: l'Europa, vertice a tre senza l'Italia. Renzi, la loro strategia è sbagliata. Incontro tra Merkel, Hollande e Juncker. Berlino minimizza, è solo un appuntamento di routine. La stampa la vede così: manovra, l'Italia cerca uno sconto da 10 miliardi, intesa vicina con l'Unione Europea. In questo caso si apre uno spiraglio, secondo la stampa, vedremo, su questa intesa comunque che sarebbe in qualche modo vicina, in realtà al di là delle divisioni apparenti tra l'Italia e l'Unione Europea. Il Messaggero: ancora vertice senza l'Italia, gelo di Renzi, strappo europeo, mercoledì Juncker, Merkel, Hollande a Berlino con gli industriali europei, ma non c'è Roma. E sapete cosa mi è venuto in mente questa mattina? Mi è venuto in mente un vecchio film di Nanni Moretti che faceva così. No, veramente, non mi va, ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri. Non... Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Ecco, questo è Renzi: mi si nota di più se vengo e sto in disparte oppure se non vengo per niente. In questo caso, secondo me, Renzi lo si nota di più se non va, se non viene. Perché allora si parla di una rottura tra l'Italia e la Germania, inflessibile sul rigore, e questa è una cosa che gioca a favore di Renzi sul piano interno, sicuramente in vista anche del referendum costituzionale, fare la parte di quello che batte i pugni sul tavolo in Europa. La realtà, lo sapete, è ben diversa, perché l'Italia spende, espande, il debito pubblico sta crescendo e quindi il problema, semmai, caro amico governo, è come spenderli i soldi che hai a disposizione. Potresti fare per esempio un bel taglio delle tasse come chiedono tutti, oppure addirittura un piano di investimenti a un mese dal terremoto di Amatrice, di Accumuli, proprio oggi, un piano di investimenti per mettere in sicurezza tutte le costruzioni, gli edifici italiani, e allora questa sarebbe una scelta. Ma insomma, i soldi ci sono stati spesi, però i risultati non sono brillantissimi. Non sarà tutta colpa naturalmente del governo Renzi, ma insomma questi sono per esempio sul Sole 24 Ore. E adesso poi torniamo all'Europa, giusto perché sta nel filo del discorso, la revisione dei dati sul PIL. Scrive il Sole: Italia fuori dalla recessione dal 2014, PIL che passa da un meno 0,3 a un più 0,1% nel 2015, debito ridotto a 132,2%. Stiamo però parlando di cifre sempre astronomiche, cifre che rispetto all'inizio degli anni 2000 sono comunque notevolmente più alte, quando già ci eravamo imposti cercare di tenere sotto controllo il debito, ma non ci siamo tutto affatto riusciti. Allora, torniamo alla questione europea. I titoli li abbiamo letti, giusto per vedere di cosa si tratta. Allora, beh, intanto questo su Repubblica, questo mini retroscena che, con cui si dice che insomma Berlino butta acqua sul fuoco, non c'è nessuna rottura tra l'Italia e la Germania e la Francia. Un formato, scrive Tonia Mastrobuoni da Germania, un formato, quello Merkel, Hollande e Juncker, che si riunisce per la quinta volta al 2013 con i vertici delle imprese dell'Unione. Si vedono alternativamente a Parigi o a Berlino. Dunque, da Berlino ci tengono a sottolineare che né la conferenza stampa Merkel, Hollande del Consiglio, né l'incontro della prossima settimana vanno interpretati come l'intenzione di tagliare fuori l'Italia. Di più, al Consiglio europeo di Bratislava, dal punto di vista tedesco, non c'è stata alcuna rottura né alcun intento di rottura tra Berlino e Roma. E va bene, questi tentativi della diplomazia tedesca di raffreddare questa specie di scontro. Sempre su Repubblica, interessante comunque l'intervista al commissario alla concorrenza Vestager a proposito della questione della tassazione delle multinazionali Apple, Microsoft. Lo sapete, sono stati questi tentativi dell'Unione Europea di come dire, aggravare il regime fiscale di queste multinazionali, che pagano effettivamente molto spesso, tramite giochi di scatole cinesi, tasse, vogliamo dire irrisorie, possiamo dirlo, poi possiamo anche essere smentiti, ma insomma spesso molto meno di quello che pagano normalissime aziende che vivono e lottano insieme a noi. Domanda: questo inasprimento del regime fiscale non teme che le multinazionali possa indurle ad abbandonare l'Europa e magari, approfittando della Brexit, trasferire il quartier generale in Gran Bretagna? Domanda al commissario europeo alla concorrenza Vestager, che risponde così: negli ultimi due anni la politica britannica in materia fiscale è diventata molto più ambiziosa. Credo che ormai si stia formando una comunità fiscale globale. La lotta ai paradisi fiscali che non ne fanno parte ai paradisi fiscali che non ne fanno parte è sempre più dura. Dopo i sacrifici imposti dalla crisi, l'opinione pubblica mondiale, dice la commissaria, non accetta più che ci siano imprese che non pagano la loro giusta quota di imprese, e quindi fa appello all'opinione pubblica. La commissaria danese giustamente fa appello all'opinione pubblica. Bisognerà vedere poi se questa comunità fiscale mondiale esiste veramente, oppure se invece sono ancora molte le possibilità di scappatoia per Apple, Microsoft e quant'altri, Amazon, spostarsi di qua e di là, quindi diciamo semmai di abbandonare l'Europa, l'Irlanda o anche l'Italia, dove ci sono dei quartieri generali importanti, anzi anche iniziative nuove come quella della Apple a Napoli. È questo il tema europeo. L'altra questione importante sui giornali oggi, anzi no, prima fatemi finire questo capitolo con dicevamo, la stampa parla di un'intesa vicina, al di là delle differenze di facciata tra l'Italia e l'Europa, sulla questione della flessibilità benedetta. Perché benedetta? Perché se ne parla da giorni, mesi, anni, ciclicamente, sui conti pubblici. L'accordo, scrive La Stampa. Tra l'Italia e la Commissione Europea sul margine di flessibilità necessario a finanziare la manovra del 2017 a portata di mano, lo confermano alla Stampa fonti del governo e dell'esecutivo comunitario. La distanza tra le parti è minima, l'Italia chiede di poter raggiungere un deficit del 2,3-2,4%, circa 10 miliardi di euro in più, mezzo punto in più, di quanto concordato nella scorsa primavera. La Commissione per il momento è disposta a concedere una cifra che oscilla attorno al 2,2%. Scusate, c'è tempo per formalizzare questa intesa fino a lunedì prossimo, quando poi verranno stese nero su bianco alcune note al bilancio. E insomma, secondo la Stampa, siamo vicini a questa intesa tra l'Italia e l'Europa sui conti pubblici, quindi 10 miliardi in più per il governo da spendere. Però torniamo al discorso di prima: come li spenderemo questi soldi? Perché il debito pubblico sta continuando a salire. Ci sono stati vari provvedimenti fiscali del governo, dagli 8.000 euro una tantum per le aziende che assumevano, ma una riduzione del cuneo fiscale strutturale viene chiesta da tutti, il famoso bonus 80 euro, insomma tutte misure che però lentamente sta emergendo che non hanno avuto gli effetti sperati, vista appunto la crescita ancora risicata del PIL italiano. E allora come investire questi soldi? Diventa naturalmente il tema. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un secondo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, 7:47 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ascoltatori ben ritrovati, 349-238-6666 se volete comunicare con noi, in attesa del numero verde per intervenire in diretta, ma dopo il GR delle 8. Allora, dicevamo, intanto la questione della polemica sulla scheda del referendum costituzionale che c'è su alcuni giornali. Divisi sulla scheda, scrive Repubblica, un quesito spot, no, è la legge. E poi ancora sul giornale di oggi, Alessandro Sallusti, referendum truffa, il quesito scritto dai Banca Etruria. Scrive Sallusti, avremo modo di spiegare in maniera documentata nelle prossime settimane, perché votando sì non solo non cambierà un bel niente, ma ci ritroveremo ancora più sudditi di uno Stato ingordo, padrone e invadente. Nel frattempo Sallusti spiega anche perché c'è una polemica sul quesito. Scrive anche Repubblica, di cosa si tratta? Si tratta del fatto che Renzi ha mostrato la scheda elettorale facendo vedere che non ci sarà il quesito tecnico sulla domanda per esteso, ma ci sarà una sintesi con i punti chiave, e questo, secondo l'ha detto ieri per esempio Renato Brunetta, è uno spot, perché appunto si salta come dire, il quesito dal punto di vista formale, che secondo le opposizioni è scritto male, sbagliato, eccetera, eccetera, per fare un elenco di punti chiave di questa riforma. E quindi c'è questa polemica. Però dicevamo invece della questione più di sostanza che riguarda l'università, la corruzione e l'allarme del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Cantone sul fatto che la corruzione negli atenei spinge all'estero i talenti italiani. Ed è questo il titolo del Corriere di oggi. Favori agli amici e concorsi truccati, in cattedra finiscono i figli dei prof. Siamo subissati. Lettere che denunciano anche sospetti di malaffare nei concorsi, puntualmente girate alla Procura della Repubblica, così numerose da far dire a Raffaele Cantone che esiste un collegamento enorme tra la fuga dei cervelli e la corruzione. E l'ho già detto prima, insomma, non ci voleva Cantone per ricordarsi, per scoprire questa cosa, che è come scoprire l'acqua calda. È chiaro che se i posti all'università sono tutti molti appannaggio dei figli dei prof, dei figli degli amici, dei politici, dei baroni, cosa resta ai ricercatori giovani italiani se non, come dicevo prima, cambiare mestiere o cambiare paese? Quindi, però insomma, adesso lo dice anche Cantone e quindi via. Del resto, perché un giovane italiano capace di scrivere pubblica, appunto, dovrebbe restare in Italia avendo l'opportunità di insegnare all'estero, se sa già che sulla sua strada sarà sbarrata da un concorso taroccato, mentre il figliolo del barone ce l'avrà spianata? Pensare che già 10 anni fa, quando era solo un ufficetto in centro a Roma e prima che il governo Berlusconi la sopprimesse nella culla, la neonata autorità anticorruzione guidata dal prefetto Achille Serra aveva sfornato un esplosivo dossier sulla scuola universitaria di alta formazione, dove si raccontava che frequenti rapporti di parentela, affinità o coniugale legano nel 50% dei casi il corpo docente con personalità del mondo politico, forense o accademico. Era un caso specifico all'Università Jean Monnet di Caserta, ma è un caso allarmante. Quasi un decennio dopo, scrive ancora il Corriere, al convegno dei responsabili amministrativi degli Atenei, Cantone racconta che in una università meridionale è stata istituita, questo è un episodio particolare, però sentite, una cattedra di storia greca in una facoltà giuridica, cioè a legge una cattedra di storia greca e in una cattedra di istituzioni di diritto pubblico in una facoltà letteraria, cioè in una facoltà tipo lettere, una cattedra di diritto pubblico. I titolari erano i figli dei due professori delle altre università, cioè io faccio un favore a te e tu fai un favore a me. Esiste un reato di questo tipo? Andrebbe istituito subito, perché altrimenti stiamo a guardare e ci pigliano per il naso. Ci pigliano per il naso. Andiamo su altri giornali, altri titoli, per esempio il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano che intanto tutto Renzi, bugia per bugia nel dibattito a 8:30 con Travaglio, che è il direttore del Fatto Quotidiano, e quindi c'è una specie di fact checking, se vi interessa, su quello che ha detto Renzi in televisione l'altra sera. Ma il titolo principale è dedicato a Regeni: tutto dimenticato, 11 voli Italia Sharm el Sheikh, a dimostrare questo accordo tra l'Italia e l'Egitto che l'Italia ha fatto finta di puntare i piedi sul caso Regeni. Adesso ci pieghiamo di nuovo, scrive il Fatto con Guido Rampoldi. Tutto parte in luglio intanto con l'italiana Saipem che firma un mega contratto da 1,5 miliardi di dollari per lo sviluppo di Zohr, un gigantesco giacimento di gas in concessione a una joint venture tra Eni e l'emanazione della giunta militare egiziana. Ventilavamo ritorsioni all'Egitto per il caso Regeni, invece è accaduto l'opposto. La settimana scorsa Roma e il Cairo hanno concordato 11 rotte aeree tra le maggiori città italiane e Sharm el-Sheikh. No, il turismo non si ferma, la voglia di mare, di barriera corallina non si ferma di fronte a niente. Nel Sinai, i vacanzieri italiani, prosegue il Fatto, saranno testimonial di Al-Sisi. E questa è quanto è in barba alla richiesta di verità su Giulio, sulla morte di Giulio Regeni. C'è a Palermo il raduno del Movimento 5 Stelle, lo sapete, è il terzo raduno nazionale dopo quello di Roma e di Imola. La cronaca la sentiremo sui giornali, nelle televisioni. Intanto c'è questa, voglio dire polemica, ma insomma, il Pizzarotti, verrebbe a dire il povero Pizzarotti, che continua a chiedere che insomma il vertice del Movimento 5 Stelle legga le sue controdeduzioni contro l'espulsione che è stata combinata. Lui, che poi è stato assolto nella vicenda del Teatro Regio per quella specie di abuso d'ufficio, che poi appunto è andato assolto, ma insomma la sospensione, dice Pizzarotti, dura da 100 giorni senza che nessuno si sia preso la briga di leggere 5 pagine di controdeduzioni. Lui vorrebbe andare al raduno a Palermo a dire la sua, ma non glielo concederanno. Di Grillo, Pizzarotti dice: un garante che si mostra vicino ad alcuni e lontano da altri non può essere un garante di nulla. Va bene, c'è ancora qualche secondo per parlare dei 50 anni di Jovanotti. Sul Corriere il dialogo con Jovanotti alla vigilia del compleanno. Un'età assurda per me, dice. Assurdo, pensando a uno come me che si è scelto come nome d'arte Jovanotti. È arrivato a 50 anni anche lui. Ho appena fatto un viaggio nei luoghi del blues, Mississippi, Tennessee. Ho visto e sentito quella sensazione di vuoto. Ecco, questo vuoto è quello di cui ho bisogno, dice Jovanotti. Non ho mai avuto paura dei miei limiti, di mostrarmi debole. E auguri a Jovanotti, che compie 50 anni, non so quando esattamente, ma insomma gli auguri li facciamo. Ovviamente noi ci risentiamo dopo il giornale radio con Si può fare. Ciao, a dopo. si può fare. Cronache da un paese migliore. No, veramente, non mi va, ho anche un mezzo appuntamento al bar con gli altri, non... Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ben ritrovati ascoltatori, Carlo non ho resistito. Hai fatto benissimo. Perché questa è dedicata a Renzi. A Renzi che non va al vertice europeo. Però ha deciso, ha deciso. Ma si nota comunque. Non l'hanno invitato. Esatto, c'è quella variabile che nel film di Nanni Moretti in realtà non c'era. Cioè, se non mi invitano, mi si nota di più se dico che non mi hanno invitato o se dico che in realtà comunque io non potevo. Ecco, esatto. Guarda che comunque quel giorno non potevo, grazie mille, ma noi non l'avevamo invitata. E il Renzi che sbatte i pugni in Europa, insomma, conviene soprattutto, prima di tutto a lui, secondo me, visto che fra un po' c'è il referendum costituzionale e quella sull'Europa è sempre una battaglia spendibile in campo elettorale. Cari ascoltatori... Cioè, anche utile per noi, nel senso che è anche buono che in realtà che batta i pugni, nel senso che in realtà è importante, non si capisce bene. Da un lato fai i complimenti all'Italia, alla Grecia per come gestiscono tutta la questione degli emigranti, però dopo quando ci devono decidere le cose importanti non lo inviti. Ma 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco parliamo, entriamo a scuola col panino o la schiscetta portati da casa e vediamo come verremo accolti, perché non si può fare, ma non si può entrare nelle mense col panino se è portato da casa. Infatti mi interessa perché sono ignorante e voglio capire. Torino e poi anche Milano. 349-288-6666 se volete scriverci. Ci abbiamo anche la pagina Facebook, si può fare, Trattino Radio 24, l'account su Twitter @ si può fare 24, le dico tutte. Fai benissimo, giusto. Poi abbiamo i nostri account personali, ma questo insomma già lo sapete. Il mio è @ Carlo Gabardini, ma tu sei una tweet star, ti conoscono tutti. No, e il mio è @ Ale Maurizi. Poi c'ho anche Snapchat adesso, un giorno dovremo parlare anche di Snapchat. Sì, questo diventa un tormentone, cioè tu continui a dire che sei su Snapchat, sì. Io che non so che cosa sia, perché non lo so, lentamente... ti dico che questa cosa mi fa paura. Ah, sì? Snapchat, perché il nome mi fa un po' paura. Io lo chiamo Snaps, faccio prima. Va bene. Ma abbiamo anche il gioco. Abbiamo anche il gioco. I biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale di Milano. Al primo che... No, al primo no. Oggi non c'è da indovinare, c'è da fare un intervento in radio 800 24 00 24. E dire per esempio quale coppia vorreste rivedere insieme. Partiamo dalla notizia, sì, del una secolo. Delle notizie della settimana, insomma, per chi è appassionato di gossip, perché ha seguito, ovvero il divorzio Brad Pitt Angelina Jolie, e quindi vi chiediamo, voi chi vorreste che si rimettesse insieme, sì, ma non intendiamo solo le coppie per forza del mondo dello spettacolo, solo del mondo dello spettacolo, ma nemmeno per forza matrimoniali, giusto? Sì, possono essere anche altre cose. E non sto parlando di unioni civili, sto parlando appunto la coppia Berlusconi-Bossi, per esempio, se uno la volesse rivedere perché si era appassionato tanto dal 94 senza leader, in questo caso potrebbe, esatto, rivolere questa. O Renzi Letta, per esempio, non so, tutto il mondo stai sereno, ecco. Renzi Letta con la campanella. Oppure che ne so, per esempio a Claudia Schiattone vorrebbe rivedere insieme Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno, perché lei difende la donna italiana e la castà non è andata giù, non è non andata va giù. Bene, non è giusta, che dire così. 8, si 0, può 0, fare 0, anche 24, di più di coppie. Se diciamo, io avrei sempre risposto che vorrei che si rimettesse insieme il trio Solenghi, Marchesini, Lopez, ovviamente fuori tempo massimo, non essendoci più Anna Marchesini, però avrei detto quello, ecco. Oppure per esempio Hillary e Bill alla Casa Bianca, però a ruoli invertiti. Qualcuno potrebbe volere anche quello. Quello c'è insieme anche una notizia politica, non è solamente rivederli insieme, ma direi che è quasi un endorsement contro Trump. Chiamateci 800 24 00 24, vi aspettiamo. Ecco 13, buon soldi, uno per il blues. Dimmi allora, dimmi dove eri tu, tu. E allora, sono sempre di più, lo dicevamo, le famiglie che chiedono di poter portare il cibo da casa, un panino, la schiscetta, per i loro figli che frequentano scuole materne in generale o anche in qualche caso le elementari. Quali sono le motivazioni? Si dice perché la mensa scolastica è troppo cara, oppure perché non viene apprezzato, approvato del tutto la qualità del cibo, la qualità del cibo o la quantità magari, o la quantità del cibo. E allora noi vogliamo parlarne con intanto con l'avvocato Giorgio Vecchione, che ha fatto il ricorso, che ha aperto questa questione a Torino. Buongiorno. Ed ecco noi anche la mamma di una bambina della scuola Pirelli di Milano, Anni Guarda, Marilu Santoiemma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la premessa da fare, brevissima, è questa per spiegare agli ascoltatori. Questa possibilità in genere non è consentita nella scuola pubblica, però alcune famiglie di Torino hanno fatto ricorso con l'avvocato Vecchione. Prima hanno ricevuto un no, poi un sì, sono arrivati ad avere 58 famiglie l'autorizzazione a portarsi il panino da casa. C'è stato un ricorso del Ministero dell'Istruzione contro questa decisione, ma la Cassazione ha respinto il ricorso e addirittura ha esteso, diciamo, a tutti, avvocato Vecchione se sbaglio poi mi correggerà, il diritto a tutte le famiglie di portarsi cibo da casa. E allora sono nate altre richieste, altri ricorsi, per esempio nel caso di Milano. Partiamo però, avvocato, da Torino, perché qualcuno invece dice, il comune di Milano in particolare, quello di Torino era un caso particolare. Quali erano le ragioni di quel ricorso di cui lei si è occupato? Processualmente ha fatto un pasticcio, nel senso che il ricorso in Cassazione non c'è ancora stato. C'è stata una sentenza di tribunale che è stata poi ribaltata dalla Corte d'Appello. Questo è il quadro processuale. Sulla scia della sentenza della Corte d'Appello di giugno ci sono stati altri 15 ricorsi d'urgenza di altre famiglie che hanno voluto farsi riconoscere lo stesso diritto, e il Tribunale di Torino, con provvedimenti d'urgenza, ha consentito anche loro l'esercizio di questo diritto. E quindi a Torino adesso ci si può portare il panino da casa? Ma allora, a Torino, muniti di un titolo giudiziario, sono all'incirca un centinaio le famiglie che possono. Ma perché senza titolo giudiziario non si può? Ma questa era la posizione del Ministero, che di fronte alla sentenza di Corte d'Appello, che sanciva un diritto generale, un principio generale, ha inizialmente detto no, se non fate parte dei 58 nessun diritto. Ma allora ovviamente questo ha spianato la strada giudiziale, quindi ha aperto le porte al tribunale a n famiglie che hanno deciso di procedere. Quindi dal punto di vista giudiziario siamo ancora in corso di capire se è consentito a tutti o solo a queste famiglie. C'è una, no, scusi, mi faccia dire, perché altrimenti si entra all'interno di una appunto della vicenda processuale, ma non è questo il nostro interesse, chiaramente diventa un fatto tecnico tra gli avvocati e i magistrati, il ministero che ha fatto ricorso. Però le ragioni mi interessano, avvocato. Allora adesso poi lo chiederemo anche alla mamma di una di queste bambine. Quali sono le ragioni per cui questi genitori hanno chiesto di potersi portare il panino da casa anziché mangiare come tutti gli altri alla mensa scolastica? Le ragioni di fondo sono una fuga da un sistema di refezione scolastica che ha tradito le sue origini, nel senso che si fugge da un servizio pubblico che è a domanda individuale, estremamente oneroso e qualitativamente pessimo. Queste sono le ragioni di fondo. Quindi queste famiglie dicono che si paga tanto e si mangia male. Quanto si pagava nelle scuole di Torino? Ma a Torino il pasto, per chi non ha agevolazioni idee, all'incirca di 7,10 euro, recentemente incrementato dell'1%. Marilu Santoiemma, la mamma di una di queste bambine che ha sollevato il caso a Milano. A Milano invece quanto costa il pasto alla mensa scolastica? Allora, io che non ho agevolazioni alcune pago circa 700 euro all'anno, sia pasti consumati che non consumati. È un forfait che si paga anticipatamente, comprende tutto, per cui a pasto viene circa 6 euro, ho fatto il calcolo, mettendoci dentro le assenze e le festività. Ma saranno più o meno 200 pasti, no? No, molto meno. Senta, ma e quindi la questione economica, 6 euro a pasto, lei come questi altri genitori ritiene il costo eccessivo, ma è solo questa la motivazione, no, allora, o anche una questione di qualità, come diceva Vecchione? Allora, è assolutamente le due ragioni. Anche si mangia male questo, nella scuola pubblica? Sì, ma non è tanto quello che si mangia male, non c'è assolutamente attenzione alla qualità della materia prima e poi al gusto. Ancora è di questa settimana che i bambini milanesi hanno mangiato i pomodori provenienti dalla Polonia. Che sono cattivi. Ma non è che sono cattivi, innanzitutto il capitolato d'appalto prevede in prima istanza pomodori italiani. Certo. Ma come tutta la frutta e la verdura, in prima istanza dovrebbe essere italiana. Sì. Il problema è che la società che gestisce a Milano, poi c'è questa anomalia, questo peccato originale, che la società è completamente partecipata dal comune, quindi in house, anche se è una SPA, per cui controllore e controllato si confondono. Che però dovrebbe essere meglio il fatto che sia del comune, nel senso che ha ragione solo. È una partecipata, è una SPA partecipata al 99% dal comune, all'1% da un'altra società del comune, che è quella che gestisce i mercati ortofrutticoli, che si chiama Sogemi. Senta Marilu, però quindi lei dice il costo eccessivo, la qualità cibo non italiano. Lei a sua figlia che cosa dà? Anziché i pomodori che vengono dall'Olanda, cioè cerca. Semplicemente pomodori italiani di qualità, chilometro zero, ma è quello. Guardi, io sono anche rappresentante cittadina delle commissioni mensa e diciamo che questo strumento è stato l'estrema ratio, ma è la sconfitta della ristorazione. Io credo nel pubblico e credo nella ristorazione pubblica, ma se la ristorazione pubblica è Milano Ristorazione SPA, non ci siamo. È dal 2000 che il comune ha creato questa società, è dal 2000 che ci sono proteste. Mm-hmm. Consideri che questa società ha chiuso la metà delle cucine esistenti a Milano e ha creato due grandissimi centri di cottura, per cui a Milano i bambini mangiano cibo industriale. Voi dite anche questo, cioè che si sta creando una sorta di industrializzazione del pasto della mensa scolastica. Che però forse è un po' per abbattere i costi immagino, per non avere una cucina in ogni scuola. Devo dire che anch'io ho una figlia che va in una scuola materna, io personalmente non ho mai trovato niente da ridire, anzi io sono felice che lei mangi tutto quello che le propongono, perché a casa mi mangia soltanto la pasta in bianco e a scuola invece mangia anche le verdure, ma questo è un altro punto però di vista. È un tuo problema se cucini male, però sì, Alessio, invece la signora cucina molto bene e giustamente capaci. Dice io mia figlia voglio portare le cose che cucino io. Tra l'altro mi sembra anche questa volta il problema, perché ci sono anche un sacco appunto di bimbi che hanno dei genitori che cucinano molto male. Comunque non volevo interrompere, prego. Allora però torniamo al punto, al di là delle battute, avvocato, perché adesso che questo diciamo diritto è stato in qualche modo acquisito, consentito, cioè di portarsi il cibo da casa, si sta creando un'altra questione, un altro problema. Dove consumare questo panino, questa schiscetta portata da casa come fa Marilu con sua figlia, nei luoghi dove gli altri bambini mangiano il pasto della mensa scolastica, oppure come ha voluto inizialmente fare il Comune di Milano, a parte per problematiche che mi dica lei quali sono le problematiche per cui ai bambini non è stato consentito di mangiare insieme, cosa che devo dire al di là di come ognuno la possa pensare è francamente spiacevole, brutto pensare che si possano discriminare i bambini su queste questioni che riguardano gli adulti e non loro stessi. Assolutamente sì. Il problema del momento è proprio questo, perché partiamo dal presupposto che la Corte d'Appello di Torino, i tribunali di Torino che si sono pronunciati, hanno riconosciuto che il diritto dei bambini di portarsi il pasto da casa non è un diritto fine a se stesso, è un diritto che è figlio del diritto all'istruzione, nel senso il tempo pieno, quando comunque ci sono i rientri obbligatori, tutti i bambini hanno diritto a ricevere un segmento educativo che è quello che passa attraverso il tempo mensa, quindi socializzazione, tutta una serie di aspetti educativi che non sono meramente nozionistici. Il Tribunale in particolar modo, in una precisazione di una delle ordinanze, ha chiaramente lanciato un monito alla scuola dicendo fate attenzione, perché se io riconosco questo diritto che è figlio del diritto all'istruzione e voi come istituzione scolastica organizzate questo servizio misto isolando i bambini o mettendolo da un'altra parte, quindi separandoli da compagni e insegnanti, state facendo niente meno che vanificare quel diritto. Sì, allora lo dico io quali sono le obiezioni che ha fatto il Comune, perché lei giustamente rappresenta l'altra parte. Il Comune dice che c'è un problema di, per esempio, di possibile contaminazione del pasto degli altri bambini. Cioè io vado con una schiscetta con dentro, che mi ha fatto mia mamma, dentro c'è qualche cosa di non controllato dalla scuola, perché viene da un privato. Se un altro bambino mette le mani nel piatto, potrebbe mangiare qualche cosa che non è controllato. E questa è un'obiezione che viene fatta, avvocato. Sì, questa è un'obiezione che viene fatta come scuola, come un disco rotto da 4 anni in, sì, in tribunale, in corte d'appello. Hanno continuato a dire ci sono norme igienico-sanitarie. Io per 4 anni ho detto, mi dite quali sono queste norme igienico-sanitarie? Mm-hmm. Ci sono i pareri dell'ASL, me ne fate vedere uno. Non c'è mai stato niente. L'avvocatura del Comune di Torino, l'avvocatura dello Stato, in 18 procedimenti cautelari non ha mai tirato fuori uno straccio di norma. Hanno sempre eccepito i protocolli HACCP, che sono protocolli che riguardano le ditte di ristorazione, sì, nei confronti dei, dei loro utenti. Va bene, no, io ripeto, non volevo entrare nel merito, volevo solo porre le questioni. Se mi tira fuori il protocollo HACCP, non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. No, sto scherzando, ma è la verità. Si metta nei panni degli ascoltatori che non ne sanno un fico secco di tutto ciò a proposito di cibo. Marilu, un'ultima domanda che volevamo farle è questa. Insomma, non pensa, come dicono altri genitori, che il diritto di suo figlio, sua figlia in questo caso, ad avere un pasto diverso, migliore, eccetera, eccetera, possa intralciare in realtà il diritto di tutti gli altri ad avere il pasto organizzato con la mensa scolastica pubblica come avviene e come appunto alcuni presidi e alcuni comuni stanno dicendo? No, assolutamente no, perché appunto è un diritto ed è un servizio a domanda individuale. Il comune me lo offre, io decido se avvalermene o meno. La coesistenza c'è stata perché mia figlia ha mangiato in refettorio con il pasto preparato da me. E non è successo assolutamente nulla, come avviene anche durante la merenda alle 10:30, che i bambini si scambiano di ogni cosa. Peraltro, durante la mensa sono le maestre che sono attente a che i bambini celiaci con la dieta sanitaria, con la dieta etico-religiosa, non si scambino del cibo. Per cui l'assistenza c'è già, devono avere. Ci sarà anche il bambino col pasto portato da casa. Come sorvegliano tutti gli altri che in questo momento si siedono accanto alle maestre proprio perché portano un pasto diverso, così sorveglieranno anche coloro che portano il pasto da casa. In ogni caso i comuni, o il mio interlocutore è il comune di Milano, non ha avuto tutta questa attenzione quando il gestore del servizio ha lasciato scappare pezzi di plastica che arrivavano nelle polpette piuttosto che la mozzarella blu, piuttosto che le lasagne pelose con il pelo del bovino. Per cui di cosa stiamo parlando? Va bene, una mamma va bene, sicuramente questa metterà più attenzione nel pasto che prepara per il figlio. No, ma questo è sicuro. Il problema è capire è che la maggior parte delle mamme lavorano e non hanno la possibilità di preparare il cibo ai figli. Per la sottoscritta. Non voglio che sia esteso e in ogni caso spero che questa lotta valga anche come strumento di pressione per migliorare la mensa scolastica. Cioè, questo ben venga. E siccome lei le ha citate, io intanto vi ringrazio e vi saluto. Marilu Santoiemma e Giorgio Vecchione, l'avvocato del ricorso, le salutiamo, le maestre, perché maestri quando ci sono, ma sono quasi tutte maestre, che ogni mattina si occupano di questi marmocchi che insomma, sono impegnativi. E questa era la questione. 800 24 00 24, ascoltatori, voi cosa ne pensate? Da quale parte state di qua o di là? Ci risentiamo tra pochissimo. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Allora, c'è un ascoltatore che dice, Vittorio da Modena, questi genitori non hanno altre cose a cui pensare, si facciano un bel giro in Africa. E questo è anche un modo di vederla, insomma, no? Perché con la propria schiscetta, tu dici, in Africa. Schiscetta. Ma un po' quello che dicevi tu prima, le mamme che non hanno proprio il tempo neanche di pensarci di fare da mangiare a casa, figuriamoci. Io l'ho detto, la mia opinione, anche se credo al diritto di ognuno di potersi portare, anche perché no, il panino da casa. Mia figlia mangia la mensa scolastica e noi, io e mia moglie, siamo felicissimi perché mangia molto più vario di quello che purtroppo gli facciamo fare noi a casa, che siamo un po' pigri. Certo, io penso anch'io che comunque che ognuno debba poterselo portare, sì, da casa, non è quella la questione. Però... è che a volte, e poi potrebbe accadere la stessa cosa al contrario, perché in realtà è quasi più democratico il fatto che tutti mangiano uguale alla stessa mensa, piuttosto, infatti, che arriva qualcuno che mi porta 8 sacchi e tutti i giorni, attenzione, mangia gli spaghetti con l'astice, magari dopo un po' dico, ma perché lui c'ha l'astice e io ho sempre sto hamburger? Esattamente quello che dice un altro ascoltatore, che dice, come fai a far mangiare a un bambino il minestrone di farro o di verdure se a fianco il bambino si mangia un bel pezzo di pizza portato da casa? In effetti è vero. E un'altra obiezione è questa di un ascoltatore che dice, ma nel prezzo della mensa scolastica è compreso il costo della sorveglianza da parte del personale insegnante? Perché in questo caso, dice Maria Letizia, si potrebbero spiegare le resistenze in qualche modo della scuola, perché nel costo io ti ci metto non solo il costo del pasto ma anche l'insegnante che ti sorveglia. Cioè, non credo che ci sia il costo della sorveglianza, parlando noi di scuola pubblica. La vera cosa è che c'è il cosiddetto costo dello sbarazzo, che sarà sicuramente a carico di chi fa la ristorazione. Quindi se la metà porta una roba da casa e sporcano, poi comunque le pulizie pulisce. Vengono fatte dagli altri, immagino. Nicoletta dalla provincia di Como, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Prego, Nicoletta. Niente, era per la domanda che avete fatto, sì, all'inizio della... Sulle coppie che vorreste riprodurre, sì, riunificare anche. In qualche, esatto, modo. Riprodurre nella settimana del Fertility Day non va detto. Mi scusi, prego. Oh, volevo stare sull'attualità, quindi Brad Pitt. Mi piacerebbe tornarsi con l'Aniston. Con la sua precedente, addirittura quella, sì, prima della Jolie. Mi piacevano di più come coppia. Per quale motivo? Per ragioni estetiche o per altri motivi? No, perché l'Aniston non è così bella, non è così... Era giusta. Era giusta. Bello. Infatti quando si sono, dopo la notizia del divorzio, moltissimi hanno postato immagini dell'Aniston gioente, felice, sì, ovviamente immagini di repertorio dove ce la immaginiamo tutti felicissima, che dice finalmente, anche, cioè, solo per vendetta, se finalmente. Se ho capito bene, Nicoletta, l'idea è quella di dire l'Aniston, che è una bellezza più normale, sarebbe un messaggio positivo per le donne normali di poter avere un uomo come Brad Pitt. Esatto, non doveva essere per forza una modella. Almeno lei va bene, ma invece ma non è vero, lei può concorrere. Brad Pitt è single adesso, può concorrere assolutamente. Signora, grazie. Nicoletta, grazie. Allora, vi aspettiamo per così proporci delle altre coppie che vorreste rivedere insieme, non solo coppie del mondo dello spettacolo, abbiamo detto Bossi Berlusconi o altre, Hillary Clinton, Bill Clinton alla Casa Bianca insieme, ma a ruoli invertiti. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Potrei sembrarti un po' in ritardo, ma sono in auto e sto vagando, preda solo di miraggi. Non ci sono più parcheggi. Pronto anche il vano motore, spingo e mollo l'acceleratore, sento puzza un po' e la tensione, un po' il bruciato della frizione, me. Allora, intanto c'è un ascoltatore che dice che come coppia propone lui con Jennifer Aniston. Ottimo, non è male, questa non è male. Allora, questa invece che vi stiamo per raccontare sì che è una buona notizia. Questa è veramente una buona notizia, perché i furbetti del parcheggio nell'area di sosta dei disabili hanno le ore contate, almeno speriamo. Si sta sperimentando a Roma sempre di più il sistema Tommy 2.0, un dissuasore, un allarme appunto a tutela delle aree di sosta riservate ai disabili, un sistema tra l'altro ideato dal nostro amico Gianluca Nicoletti, e collega. Si chiama Tommy 2.0 dal nome di suo figlio Tommaso, e una cosa che sta nascendo in collaborazione però con l'ACI, ed è con noi Riccardo Collicchia, buongiorno, direttore di ACI Consult. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci dia buone notizie. Intanto come funziona? Poi ci spiega il fatto che si sta applicando a Roma e lì ci siete in ballo voi. Come funziona questo sistema? Ma il sistema è nato proprio per l'esigenza del contrasto all'occupazione abusiva. Abbiamo sperimentato insieme a Gianluca uno con un cancelletto mobile, con un telecomando posizionato sullo stallo di sosta, però purtroppo il Ministero poi ha obiettato che effettivamente, come prevede il codice della strada, agli stalli di sosta riservati ai disabili la fermata è consentita ma non la sosta. Quindi qualsiasi impedimento non andava bene. Certo. Non andava bene. E allora? Quindi abbiamo un po' pensato di trovare una soluzione che sfruttasse altri meccanismi psicologici. Siamo partiti dalla riflessione dei sistemi di dissuasione alla velocità, no? Quelli sì, col pannellino, no? Che dà l'informazione sulla velocità, e abbiamo visto gli effetti che ha sulle persone, no? Quelli non sanzionano nulla, però c'è la frenata, quasi che il sentirsi svelata, no? Pubblicamente la velocità, no? Si ha un effetto di contrasto all'infrazione. Ma quindi in questo caso sarebbe un pannellino che dice: occhio, guarda che stai mettendo la macchina e portando via della serenità a un ragazzo disabile. Allora, però dovevamo fare un sistema che fosse il più semplice possibile, che avesse dei costi bassissimi, che non prevedesse allacci elettrici, quindi un qualcosa di veramente semplice. E così abbiamo pensato di equipaggiare lo stallo con un antifurto. Un banale sistema di antifurto, quello che si installa anche sulle autovetture. Questa è una piastra che viene posizionata al centro del parco di sosta, esatto. Che riconosce, diciamo, ha un sensore che riconosce le masse metalliche, ovviamente di importanza rilevante. E quindi, quando io mi avvicino con l'auto, se non ho un particolare rileva chip, la massa metallica suona. E genera un allarme che è abbastanza si sente abbastanza. E dai test che abbiamo fatto, paradossalmente questo effetto Gianluca Nicoletti chiama pubblica sottolineatura, per non dire di peggio, effetto gogna, no? Esatto. Effetto gogna molto più. Lui Gianluca è un artista da questo punto di vista, è creativo sotto ogni profilo. Effettivamente ha avuto un effetto di dissuasione sulle persone che vivevano questa esperienza, addirittura superiore nel timore di essere multati. Ecco, ne esistono tanti. A questo proposito voglio dire, intanto chiamarli furbetti del parcheggio, l'abbiamo detto anche noi, però Carlo, troviamo un'altra espressione, no? Perché non sono per niente furbetti, sembra quasi una parola simpatica, no? Certo. Approvativa, sono delle brutte persone, punto. Specialmente i recidivi sotto i parcheggi, in particolare al centro di Roma, moltissimi ristoranti, la sera non si trova posto, e sotto casa di Gianluca era proprio frequentissimo l'occupazione quando lui non c'era. Ma anche poi, devo dire la verità, in certi casi un po' l'arroganza che lui è più volte ha manifestato e ha lamentato, no, di certe persone che neanche la tolgono a natura. Però ecco, questo è un po'... posso fare una domanda? Ma nel è una senso minoranza, che però, non siamo tutti da un così, lato il diffusore. Il diffusore mi sembra molto, molto preciso come funziona. Io mi chiedo adesso, nel momento in cui c'è l'attenzione, uno dice, vedi, appena scatta l'allarme uno decide di non parcheggiare lì la macchina. Ma io non vorrei che in futuro, oltre ad avere i parcheggi per disabili maledettamente occupati, avremo pure delle sirene che suonano in continuazione, perché se uno, diciamo, se ne frega e magari non proprio in centro a Roma, ma in un'altra zona, in più non c'è neanche più il vigile, perché dice tanto c'è il dissuasore automatico, quindi rimaniamo con le macchine e in più abbiamo anche il suono? Beh, questo no, perché l'abbiamo evitato. Allora, intanto questo è un dispositivo che ha superato i test di approvazione del Ministero dei Trasporti. No, ma non lo metto in dubbio. Ecco, quindi, e quindi hanno imposto una serie di regole, ovviamente anche sulla durata dell'allarme, sulla frequenze utilizzate, perché non devono disturbare. Quindi dopo il secondo, questo va detto, che ci sarà una ripetizione, no, dell'allarme per tre volte e poi si interrompe, perché certo, quindi un dissuasore, no, no, ma questo non doveva dirlo, non doveva dirlo assolutamente, le chiedo scusa, è colpa mia, devo rispondere, è colpa mia, le chiedo scusa. Collicchia, una domanda, però abbiamo 20 secondi, abbiamo 20 secondi. Quanti è tutto programmabile, quindi possiamo pure portarlo a mezz'ora. Niente, non riesco a farla la domanda, dobbiamo salutarci. No, non ce la faccio perché devo dare la linea al giornale radio. Era su quanti posti si sta sperimentando sperimentando a Roma, ma ne a Roma sono su quattro stalli, ma abbiamo avuto già ordini per 800. Bene, bene, l'importante, ecco, è questo, quindi... che si faccia. Grazie Collicchia dell'Aci. Grazie, grazie. E un saluto a Gianluca Nicoletti e a Tommaso. 800 24 00 24. Dopo. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Dylan Dog sta arrivando su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte. Tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole te lo porto a casa. Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di abbaiare come un cane. Quello che resta questa che state ascoltando è Si può fare. Questa che abbiamo appena ascoltato è L'estate di John Wayne di Raffaele Gualazzi, una canzone che ci è stata suggerita da Giorgio da Napoli. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca di Si può fare in musica, ovvero se siete dei cantanti, dei cantautori, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e sentite una canzone che secondo voi racchiude bene il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, così noi la mettiamo sui nostri social e la faremo ascoltare e sentire durante la trasmissione. Lo potete fare mandando una mail a si può fare @radio24.it oppure sui nostri account social, per esempio su Facebook si può fare /radio24 oppure su Twitter @si può fare24 oppure sui nostri account personali che vanno benissimo uguale. Il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Allora, cari ascoltatori, all'800 24 00 24 questa mattina vi stiamo anche chiedendo quale coppia vorreste rivedere insieme o vedere insieme in ossequio alla notizia della settimana del divorzio tra Brad Pitt ed Angelina Jolie. Poi sentite qua, c'è una mail che c'è, anzi prima l'altra cosa che riguarda gli ascoltatori, Call Me Up, certo. Perché poi tra mezz'ora circa torna la rubrica sul finanziamento dal basso. Anche oggi vi chiediamo di farvi giurati, esatto, soprattutto torna la giuria popolare, torna che giuria abbiamo popolare, testato settimana scorsa, esatto, quindi potete dire la vostra su due progetti, uno che riguarda un centro, sono due progetti che riguardano in qualche modo le Olimpiadi, uno riguarda un centro di aggregazione che si vuole costruire in una favela di Rio de Janeiro all'indomani delle Olimpiadi di Rio, e l'altro invece la realizzazione di una, sono due cose molto diverse, di una pista per skate a Perugia, è uno sport, anche questo magari non olimpico, è una pista per skate in una zona degradata della città. Quindi non ancora olimpico, chi lo sa, ancora magari. Olimpico. Se volete dire la vostra su questi due progetti, cominciate a chiamare 800 24 00 24. Ma dicevo, sentite la mail prima di dare la parola agli ascoltatori. A proposito della schiscetta, ci scrive Kay da Montefiascone, Viterbo, e dice: mio nipote 11 anni va a scuola nel Regno Unito ormai da 7 anni, è libero di andare in mensa giorno per giorno prenotando il giorno prima, oppure di portare il pasto da casa. La scuola pubblica i menu della settimana, li pubblica online con tutti i dettagli nutrizionali, gli apporti calorici. Addirittura all'inizio dell'anno la scuola indica i cibi da non introdurre, tipo arachidi, fave, eccetera, per non creare problemi ad altri bambini. La dietologa dà consigli alle famiglie, ci sono forni a microonde per riscaldare le vivande, proibite le bevande gassate, le macchinette dispensatrici vendono frutta, yogurt ed altri cibi sani. Ora, che ci si debba far dare lezioni di alimentazione dall'Inghilterra fa ridere, però questo è il caso di Kay. Poi magari non so se questo è, come dire, esemplificativo di tutto tutta la Gran Bretagna oppure no. Vabbè, cioè, si può dire che forse in Inghilterra quando qualcuno porta da casa crea pochissima invidia con quello che porta da casa, invece da noi c'è di più il problema che uno porta da casa delle cose buonissime. Da casa cose buone. Comunque la sostanza, cioè la sostanza, il punto potrebbe essere questo: ci stiamo facendo un po' del male da soli con una questione che potrebbe essere risolta molto semplicemente, insomma, questa questione del panino da casa, no? Probabilmente è un diritto, così hanno detto questi giudici, adesso che si trovi il modo di far espletare anche questo diritto. Poi il 90% credo degli altri genitori continuerà a far mangiare i propri figli alla mensa, perché è più semplice, pratico e anche abbastanza economico, devo dire. Poi ci sono le questioni del reddito, però lì c'è le esenzioni, gli sconti per chi ha dei redditi bassi, lì però si entra in un'altra questione, quella se questi sconti e questi aiuti alle famiglie sono efficaci o sono pensati in maniera male, sbagliata. Certo. È arrivato anche un SMS, sì, che dice, dopo che abbiamo parlato dei dissuasori per i parcheggi per disabili che emetteranno un suono, che ci chiede come risolvere il problema dei contrassegni per disabili falsi oppure assegnati senza requisiti. La domanda è giustissima ed è corretta, ma i due problemi sono su due binari paralleli, nel senso che da un lato è far sì che quelli che hanno il contrassegno possano parcheggiare e poi parallelamente è far sì che solamente quelli che veramente hanno necessità abbiano il contrassegno. È ovvio, chi ha il contrassegno riuscirà a parcheggiare anche in questi parcheggi con il suono. Gianluca da Milano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Per quanto riguarda la coppia, a me piacerebbe rivedere Giulio Cesare e Cleopatra per far capire un po' che, nel senso, le differenze si possono assolutamente colmare, nel senso che siamo cittadini del mondo, mi piacerebbe vedere sempre più coppie che... Perché questa colori... lei la vede come una coppia mista dal punto di vista etnico, quasi razziale, sì. Beh, è giusto, un romano, un egiziano. È anche per sottolineare che non è esattamente un problema di oggi, che sono sempre esistite etnie diverse, che si sono anche volute bene, che si sono anche unite, che forse anche tutti noi siamo figli di chissà chi, no? A forza di dire noi siamo bianchi, noi siamo neri, ma insomma, forse va un po' rivisto. Grazie Gianluca, questa non è male, devo dire, un romano e un'egiziana, oggi diresti così, allora non si diceva così perché non c'era forse questo pregiudizio, c'era... Si diceva un imperatore con un'imperatrice, sì, era un altro modo. Forse erano anche due personaggi diversi, hai ragione. Fulvio dalla provincia di Venezia, buonasera. Alle 9 buongiorno. E un quarto. Buongiorno. Sì, prego. Buongiorno, aspetta che mi fermo in macchina perché... Sì, bravo. Meglio. Sì. Eccomi qua. Allora, la coppia che volevo vedere insieme e che mi sembra molto simpatica è Silvio Berlusconi con Angela Merkel quando erano a Trieste. Il cucù, esatto. Il cucù. Lei vorrebbe rivedere Berlusconi e le sue macchiette, i suoi momenti di... Sì, era così simpatico. Sì. È bello anche definirla una coppia, mi sembra, anzi, che con questo intervento finalmente hanno fatto pace. Però scusi, Fulvio, quel momento lì, ma la coppia ha avuto anche dei momenti... difficili, burrascosi, tipo quando lei faceva le risatine con Sarkozy... Quando lui stava al telefono e lei aspettava. Per esempio, esatto. Mi ricordo. Sì. Quella è una coppia come tutti noi, oggi andiamo d'accordo, domani facciamo discussione, baruffe e ci facciamo i sorrisetti dietro. Giustissimo, il fatto che litigano non significa che non siano una coppia, concordo. Va bene, grazie anche a Fulvio, la provincia di Venezia. Allora, facciamo, abbiamo ancora degli ascoltatori, quindi facciamo una tranquilla, serena pausa per il traffico e poi torniamo. Si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, siamo di nuovo qua, 800 24 00 24, Maria da Udine, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Oggi la scaletta è così, è un po' caotica, vai Maria. Io vorrei parlare del problema delle mense. Sì. Prego. Questo problema non si risolve con il panino, si risolve cambiando il modo di gestire le mense. Le riporto una mia esperienza, un po' datata. quando ero genitore di una bambina che andava alle elementari. Sì. No, noi come genitori ci siamo organizzati in un comitato mensa e abbiamo agito sul comune perché facesse degli appalti di qualità e i nostri bambini mangiavano benissimo. Certo. Ecco, ma di che comune stiamo parlando? Di dimensioni, dico. Noi parliamo di un comune di circa 20.000 abitanti, quella volta almeno ne aveva circa 20.000, e una scuola che aveva intorno ai 200 bambini. Certo, no, le chiedevo questo perché mi sembra molto sano quello che sta dicendo, perché condivido, invece forse che ognuno faccia come vuole, il fatto che ci si metta tutti insieme e si decida che la mensa scolastica vada bene a tutti, quindi che sia fatta con i criteri, mi sembra molto saggio. Quello che mi chiedevo era, in un comune forse di 20.000 abitanti è più facile, mentre in un comune come Milano dove si è deciso, se non sbaglio, che Milano Ristorazione abbia tutte le scuole di Milano, quindi è un unico, è forse più difficile. Prego. Ma il problema è proprio quello, il mangiare sta diventando un'industria e invece non dovrebbe esserlo. Tutte le scuole hanno le mense, però preferiscono dare delle gestioni a grosse imprese, perché loro oltretutto risparmiano sul personale, confezionano questi pasti che sono veramente tristi, in questi piattini di plastica più o meno sigillati, e che fanno dei lunghi tragitti per arrivare alle mense, mentre io ripropongo l'idea della cuoca che sta in mensa, che vuole bene ai bambini come era la nostra. Bello. È molto bello, Maria, quello che lei dice, e non ha neanche, e non ha neanche tutti i torti, sì. Certo. Però bisogna anche dire che ci sono delle difficoltà oggettive a fare cose di questo genere. Si potrebbe fare solo nelle scuole, magari nei plessi, come si dice, negli istituti comprensivi dove ci sono tanti alunni. E però allora il concetto, io direi che mi sembra interessante portarsi a casa il concetto che invece di scappare dalle mense con i propri panini, miglioriamo le mense. Miglioriamo le mense. Ma in fondo è un po' anche quello che diceva la stessa Marilu, la mamma della bambina di Milano che si porta il panino a casa, dice: spero che tutto questo serva quantomeno a mettere un po' di pressione, perché no, su Milano Ristorazione. Quindi prendiamo il buono, poi diciamo, si può fare, quindi non possiamo che prendere il buono. Giorgio dalla provincia di Siena, buongiorno, ecco. Benvenuto. Tra l'altro, ascoltatori, tra poco Crowd Me Up con gli ascoltatori giurati dei progetti di finanziamento al basso. Se volete rimanere in linea, lo dico anche a te, Giorgio, poi per giocare dopo con noi. Intanto fai il tuo intervento. Buongiorno, io sono un medico della provincia di Siena, Sant'Enrico d'Orcia. Siamo in piena Val d'Orcia. La questione non è tanto cosa si mangia a mensa, chi mangia o chi non mangia. La questione è un fatto culturale, cioè bisogna cambiare l'idea della mensa non in un luogo di distribuzione del cibo, ma in un luogo di educazione al cibo e all'ambiente. Noi abbiamo fatto a Sant'Enrico d'Orcia, che è un piccolo comune, quindi buono per fare la sperimentazione, un progetto che si chiama il Circo del Gusto, e siamo partiti trasformando la mensa come luogo. Cioè il menù è stata l'ultima cosa che abbiamo fatto, ma la prima cosa è trasformare il bambino la mensa scolastica. Sapete benissimo che le mense sono fatte di solito in luoghi di scelta secondaria, sono ex garage, magazzini, e se voi andate a guardare una mensa scolastica la trovate del tutto simile a qualunque mensa scolastica, a qualunque mensa aziendale. Allora la prima cosa da fare è cambiare la mensa e renderla un luogo per bambini. Quello che abbiamo fatto poi per il menù è stato inserire nel menù della mensa prodotti locali. A Sant'Enrico d'Orcia, che è in Val d'Orcia, mangiano il pecorino della Val d'Orcia e i pici. Cioè, buonissimo. Ma però le posso chiedere, condivido i bambini come protagonisti della mensa. Guardi, io condivido molto, mi scusi, condivido molto anche la questione che la mensa deve diventare un luogo di educazione al cibo, visto che ci troviamo all'interno delle scuole. La cosa che le chiedo è, proprio in un progetto di educazione al cibo, conviene che ci sia una mensa straordinaria e ottima, che sia per tutti, di modo che si possa fare un discorso uguale per tutti, o conviene che ognuno si possa portare da casa quello che vuole? Bisogna smettere di fare questioni sulla fettina il martedì o il venerdì, o sul petto di pollo il lunedì o il mercoledì, ma capire scuola e famiglia insieme, solo insieme si può fare, certo. E istituzioni locali, che la mensa scolastica è un'ora di lezione nella quale si impara la convivialità, il rispetto per il cibo. Lei sa, e Expo ce l'ha insegnato. Caduta la linea di Giorgio, benissimo, il concetto lo aveva espresso, e tra l'altro ricordiamo anche che Anche noi ci siamo occupati con il caso della scuola Rio Crosio di Asti, con il maestro Giampiero Monaca, che è venuto da noi a raccontarci come fanno loro con i bambini, proprio quello che diceva Giorgio prima, cioè l'ora di nella quale si mangia, che diventa un'ora di educazione alimentare, il pasto condiviso, i bambini che decidono se vogliono metà porzione o tutta la porzione, in modo da diminuire gli sprechi. Se posso rispondere con una provocazione, nel momento che è un'ora di lezione, forse è giusto che ci sia una mensa uguale per tutti, perché sennò sarebbe come in un'ora di lezione che ognuno si porta a casa il libro che vuole, diventa poi un po' difficile discutere insieme. 800 24 00 24. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta, pedala. Oh, allora, questa è una super notizia, eh. Ah, pensavo una super canzone, salutiamo comunque Frankie High Energy, che ci mancava da un po', ma quando parliamo di biciclette per noi c'è sempre solo pedala. Queste sono le note in musica che vogliamo sentire quando parliamo di due ruote. E allora, il team del Politecnico di Torino ha realizzato in Nevada il nuovo record italiano, ma vanno per quello europeo, di velocità in bicicletta. Provate a sparare una cifra, io sono rimasto allibito. Anch'io. È una super bicicletta, è un super team e va a 130 quasi chilometri all'ora. Io nemmeno in macchina ci arrivo perché mi fa paura. Eccolo il ciclista folle Andrea Gallo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Andrea, studente del Politecnico e ciclista del team Poli, come si pronuncia? Policambent. Perché insomma, sai, noi qui con l'inglese, voi al Politecnico di Torino fate lezioni in inglese, siete avantissimo, va bene. Noi facciamo la nostra piccola battaglia per usare l'italiano il più possibile laddove non sia strettamente necessario, perché ci piace anche questo. Andrea, allora, cominciamo dall'ebbrezza, dal brivido. Quanti giorni fa hai realizzato questo record? L'ho realizzato venerdì scorso, quindi 8 giorni fa. Adesso siamo già tornati dal Nevada, dalla trasferta. In bicicletta dal Nevada siete tornati in tre quarti d'ora con la bicicletta che avete? L'unico problema era la trasferta, la traversata. Il pezzo mare, d'acqua, ma... certo. Senti, il record siete andati a farlo. Intanto quant'è esattamente la velocità che hai raggiunto? Fatto i 126,90 km/h. Ah, ma allora molto meno, pensavo 130. Ah, molto meno. Vabbè, ma allora. Però 10 km in più del precedente record italiano, parliamo, esatto. E quindi insomma, complimenti. E il contesto nel quale avete fatto questo record era quello di una competizione, ma anche dal punto di vista geografico, no? Raccontaci un po'. Sì, la competizione è internazionale, organizzata proprio da un'associazione. E si tiene ogni anno qui in Nevada, in questa cittadina che si chiama Battle Mountain, ormai dagli anni 2000, e consiste nel lanciarsi su un rettilineo sulla SR 305, che è una strada interstatale del Nevada, dritta in pianura su una lingua d'asfalto di 8 km che viene chiusa al traffico. Se uno chiude gli occhi e pensa, immagina queste scene da film proprio americano, vede proprio esatto, questa lingua di cemento dritta di asfalto. C'è solo l'asfalto e nient'altro intorno, perché lì in mezzo al nulla praticamente, solo cespugli, nessuna pianta. E c'è solo da pedalare. C'è solo da pedalare. Esatto. Ma volevo chiederti una cosa, scusami, in questo momento in cui nel mondo del ciclismo invece c'è lo scandalo del doping doping meccanico, quindi dove si dice che all'interno delle biciclette hanno messo il motorino, cose ovviamente illegali. Ma perché non usano la tecnologia vostra? Se voi riuscite ad andare a 130 all'ora, perché questi hanno bisogno di mettere un motorino quando in realtà esiste? Perché ricordiamo che la bicicletta di cui stiamo parlando è a propulsione unicamente umana, non ha nessun aiuto di nessun tipo. Diciamo che le regole, che sono molto strette, che riguardano il ciclismo normale, professionistico, vogliono che la bici sia sempre standard, con una geometria standard, senza nessuni paratie aerodinamiche o carenature, quindi non si possono adottare queste soluzioni nel ciclismo normale, ecco, per via delle regole, ecco. Ma e invece nelle biciclette, perché l'altra cosa che io mi chiedo, leggo bicicletta 130, la mia prima reazione è di dire, porca miseria, stiamo costruendo tutte delle piste ciclabili, ma diventerà pericolosissima la bicicletta in città, perché se anche mia nonna va in giro a 130 allora è un problema. Ovviamente invece la cosa che ti chiedo è, voi fate questi esperimenti straordinari per battere il record del mondo, ma poi parte di queste tecnologie noi in realtà ce le ritroviamo nella nostra graziella con la quale pedaliamo in città o no? Beh, diciamo che l'obiettivo di questi prototipi è poi di trasportare l'innovazione, la tecnologia, gli studi fatti su delle bici che non, poi non saranno bici ovviamente tradizionali, ma un'evoluzione della bici per riuscire a dare più una velocità maggiore alla mobilità magari urbana e extraurbana che si può avere con una bici. Quindi riuscire a sostituire magari il veicolo, l'automobile, in un futuro ha una bicicletta. Senti, ma è faticosissimo portare una bicicletta a 130 km orari? Beh, ovviamente qui è estremizzato, quindi comunque lo sforzo è massimo, e anche l'allenamento che ho fatto per riuscire a arrivare a questi risultati è notevole, quindi cioè non è una cosa che si può vedere tutti i giorni. Poi anche le condizioni climatiche lì in Nevada permettono di riuscire a ottenere velocità più alte. Sì. Ma perché in futuro noi useremo, anche noi diciamo normali, useremo biciclette che andranno molto più veloce? Cioè bisognerà mettere il limite di velocità alle biciclette in città? Ma diciamo che ci sono già sono già uscite in commercio alcune, diciamo, biciclette ibride simili alla nostra, ma simili anche alle bici normali, che si chiamano velomobili, hanno tre ruote, hanno già una carenatura, sono comode da utilizzare ma hanno un'efficienza maggiore, quindi sì, una persona, ecco, normale un particolare... riesce già a fare 50-60 km orari. Un particolare che non abbiamo detto, in effetti, che alla radio non si vede, mentre se uno apre un articolo su un sito o su un giornale lo vede subito, la forma della bicicletta non è una forma proprio normalissima, è praticamente una specie di siluro. Cioè, non ti viene ad andarci dal tabaccaio, no, tu dici? Esatto. Cioè, cos'è che gioca per raggiungere questa velocità? L'elemento, diciamo, maggiore, la forma proprio della bicicletta, sì, esatto, o qualche strana tecnologia interna di propulsione del pedale, della pedalata? Il segreto è la forma, l'aerodinamica. L'aerodinamica alla fine è tutto, ma come in tutte le cose conta tantissimo l'aerodinamica. E diciamo che è sempre sottovalutata e non si tiene mai conto di questo, invece in qualsiasi applicazione, se si riesce a ottimizzare questa cosa, si riesce ad andare più veloci. Anche su un mezzo a propulsione umana, che quindi la potenza a disposizione è molto bassa, comunque si riesce, con l'efficienza molto alta, a riuscire a raggiungere velocità. Quanto pesa la bicicletta che hai portato a 430 km orari? Questo prototipo è intorno ai 30 kg. Beh, insomma, comunque siamo contenti di aver risultato. Altrimenti volavi, se pesava di meno probabilmente avresti preso il volo, e questo sarebbe stato un altro esperimento, un altro record probabilmente. Complimenti, la prossima tappa è cercare di raggiungere un altro record, quello europeo. Beh, abbiamo capito bene? Adesso siamo tornati entusiasti dalla trasferta, quindi vogliamo continuare col tempo di Cambent su questa strada per riuscire a migliorarci ancora. L'obiettivo è costruire un altro prototipo per il prossimo anno e ritornare nella competizione con un nuovo prototipo più veloce. Sì. Ricordiamo che il record d'Europa è 133,78 km, correggimi se sbaglio, e il record del mondo è 139,45. Questo è un po' più... No, il record del mondo quest'anno è stato battuto nuovamente dal detentore. Chi è? Che gruppo Todd Reichert, che è un atleta, nonché progettatore. che progettista della sua bicicletta canadese, ha migliorato 144 km/h. Ah, però, porca miseria! È una lotta incredibile, una lotta incredibile. 144, siete un po' lontani, però insomma ci state lavorando. Siamo comunque, diciamo, impauriti da questa velocità, perché contiamo col nuovo prototipo, siamo ottimisti. Bravo, l'ottimismo ci sentiamo quindi fra un anno e siamo sui 150 km all'ora. Però non sarebbe male. Esatto. Ci proviamo. Toglimi una curiosità, Andrea, perché è vero che tu eri uno studente del Politecnico, ma non lo sei più? Sì, beh, possiamo, diciamo, svelare che... questo particolare della tua vita di atleta e studente, ma non hai finito gli studi, è così? Sì, diciamo sono ancora in stand-by. Perché sono nel mondo lavorativo, anche ho iniziato a lavorare, pedalo e faccio tante cose insieme, diciamo gli studi sono rimasti lì, ma... diciamo il mio obiettivo è anche di riuscire a finirli. Ecco, bravo, lì che volevamo arrivare. Nessuno può accusarti di pedalare poco, diciamo. Sì, esatto. Però insomma ci piacerebbe la prossima volta di sentire che hai ripreso, perché così potremo annunciare che cosa c'è, mi state dicendo che devo dare la linea alla pubblicità. Ragazzi, vabbè, ma oggi la scaletta è così, è folle. Andrea, rimettiti sui libri, mi raccomando, oltre a pedalare, perché ci vuole, Ma non metterti a 130 all'ora, che è troppo veloce. Complimenti. Grazie. A te e a tutto il team, naturalmente, del Politecnico Policumbent, che ha raggiunto questo record. Adesso ci fermiamo, regia, tranquilli. 800 24 0024. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Allora, eccoci qua di nuovo, benvenuti, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E benvenuti da Carlo Gabardini. Allora, ascoltatori, tra poco vi risentiremo e invece tra pochissimo farete da giurati ai nostri progetti di crowdfunding, perché è il momento di presentare altri due progetti di finanziamento dal basso. Vai! Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, ecco qua, è il momento di presentare due progetti di cui parliamo. Abbiamo anticipato un progetto, Greenhouse, che vuole realizzare un centro di aggregazione all'interno di una favela in Brasile, e l'altro invece è il progetto che si chiama Sierra Park, che vuole costruire una pista di skate a Perugia. Allora, prima di presentare i progetti salutiamo invece i nostri ascoltatori giurati, che sono Nicoletta, che chiama dalla provincia di Como, in realtà già chiamato prima, ha fatto il suo intervento su Brad Pitt. Ciao Nicoletta. Ciao. Eccola qua. L'abbiamo trattenuta. L'abbiamo trattenuta per giurare, fare la giurata. Poi abbiamo Maria dalla provincia di Udine, anche lei è già intervenuta. Maria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Parlando di mense e scuole. E poi abbiamo anche Fabrizio dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Fabrizio. Provincia di Piacenza. Di Piacenza, l'accogliamo lo stesso. Allora, poi farà anche il suo intervento Fabrizio, intanto in veste di giurato. Partiamo con la presentazione del primo progetto. Si chiama Greenhouse, il primo progetto, l'abbiamo detto, nasce per sostenere le attività di un centro di aggregazione nato nella favela Rossigna di Rio de Janeiro, per iniziativa della Onlus Italo-Brasiliana Il Sorriso dei Miei Bambini. Dei miei bimbi, in realtà c'è una correzione in scaletta, e qui i ragazzi, grazie agli incontri e all'orto sociale, imparano l'educazione ambientale, l'importanza di una dieta salutare e di una vita sana. Per portare avanti questi progetti e queste iniziative servono 3.000 euro. Il portavoce del progetto è Cristiano Campari, della Onlus Il Sorriso, appunto, dei miei bimbi, mi correggo. Buongiorno. E allora Cristiano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. A un minuto per convincere gli ascoltatori, un minuto, insomma, anche qualche cosa di più se serve, per convincere gli ascoltatori, i nostri giurati, a investire nel vostro progetto. Perfetto. Allora, noi lavoriamo da 15 anni nella Rossigna, come avete anticipato, che è la favela più grossa dell'America Latina, con 200.000 abitanti, e non ci facciamo mancare niente, nel senso che c'è povertà, fame, condizioni igieniche inesistenti, persone che non sanno leggere né scrivere, narcotrafficanti, e noi lavoriamo con progetti di educazione. Per quanto riguarda questo progetto della Greenhouse, è un edificio che era già esistente, che noi stiamo sistemando step by step, insomma un pezzo alla volta, e nello specifico con questa raccolta fondi vogliamo sviluppare innanzitutto un orto su una terrazza abbastanza grande, gestito dai bambini della scuola che frequentano la nostra scuola, dove possono imparare a coltivare, insomma fare delle attività a contatto con la terra, e poi mangiare, utilizzare i prodotti per la loro merenda. E poi ancora più ambizioso è il progetto dell'orto urbano, quindi uno spazio comune gestito dalle persone, soprattutto i giovani che frequentano il nostro progetto. E, è finito il tempo, va bene. Ma è tutto ottimo, spiegato, tra l'altro dentro nella descrizione c'era anche praticamente la questione di cui abbiamo parlato, dei panini, di portarsi il cibo da casa. Giustamente stavi dicendo che all'interno creare un luogo dove tutti possano mangiare il proprio cibo. Allora, cari giurati, Nicoletta, Fabrizio e Maria, avete sentito questo primo progetto, adesso sentiamo il secondo, restate concentrati. Allora, il secondo progetto si chiama Sierra Park, sempre uno dei progetti selezionati da Eppela, che fa questa rubrica insieme a noi. L'idea è quella di ridare vita ad una vecchia pista di pattinaggio di Perugia. E per trasformare appunto il primo skate park della città a disposizione dei giovani e delle famiglie. Per la messa in sicurezza e l'acquisto delle strutture servono 2.000 euro. E il portavoce del progetto è Massimo Termiti, buongiorno, dell'associazione sportiva Sierra Active Sport, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. E allora Massimiliano, anche te un minuto per convincere gli ascoltatori, soprattutto i nostri giurati di oggi, perché dovrebbero sostenere il vostro progetto. Ok, allora innanzitutto la nostra società sportiva opera a Perugia da oltre 10 anni, iscritta al CONI, e ha ottenuto la gestione della pista di pattinaggio di Pian di Massiano con un bando comunale. Il progetto prevede la realizzazione di uno skate park, quindi se vi chiedete di cosa si tratta, io potrei dire che è un progetto sportivo, in quanto lo skate, molti non lo sanno, ma sarà disciplina olimpica a partire da Tokyo 2020. Esatto. Ma direi una bugia, in quanto dietro questo progetto c'è molto di più, perché la pista è situata in una delle aree verdi più belle della città, che negli ultimi anni è stata lasciata al degrado. Quindi noi ci siamo impegnati nella riqualificazione di tutta l'area, con la sistemazione della pista, delle ringhiere, sistemando il verde e aprendo un chiosco bar per offrire un'oretta di relax a tanta gente che infatti è già attivo ed ha reso felice tante persone. Quindi l'obiettivo è quello di donare uno skate park alla città di Perugia con strutture certificate, che ci consenta quindi di organizzare corsi per bambini, promuovere lo sport come possibilità di aggregazione e lotta all'emarginazione, quindi organizzare eventi, iniziative, gare, e cosa altrettanto importante, rivalutare e rendere fruibile un'area verde che era tanto apprezzata ed era stata abbandonata praticamente. Gong. È arrivato il gong, Massimiliano. Avete qualcosa a proposito delle ricompense? Perché il meccanismo, esatto, è sempre bello chiedere, visto che il meccanismo di solito del crowdfunding è il fatto di dare delle ricompense a chi decide di metterci dei soldi. Sì, abbiamo delle ricompense che poi a seconda dell'offerta che verrà effettuata, che possa essere, che vada dalla t-shirt, come possa andare dall'iscrizione ad un corso e cose del genere. Quindi comunque anche offrire un corso di skateboard per i bambini, comunque è una cosa bellissima. È bene iniziare da piccoli, visto che nel 2020, ma ci dai la certezza che nel 2020 lo skate sarà? Sì. Perfetto, perché prima in testa lo dicevamo, per il momento non è ancora le Olimpiadi, ma chissà, e quindi volevamo lo poi sarà, chiedertelo, ne poi. Siamo molto contenti. Allora, cari giurati, avete sentito i due progetti, Greenhouse, la creazione di un centro di aggregazione in una favela di Rio de Janeiro, e Sierra Park, invece la pista di skate a Perugia, due cose molto diverse tra loro, ma entrambe meritano il vostro sostegno. Forse Nicoletta, dalla provincia di Como, cominciamo da te, quale dei due progetti ti ha convinto di più? Allora, visto che ho un nipotino italo-brasiliano, per forza quello del Brasile. Però mi impegno di dare 10 euro invece al progetto di Perugia. Perfetto, ma anche perché magari il suo nipotino va in skate, non è che basta essere brasiliano, cioè, voglio dire, poteva beccare entrambi i progetti. Ma sì, quello lo posso fare dall'Italia. Comunque, colpo di scena, perché Nicoletta sostiene Greenhouse, però in realtà darà i soldi. Molto bene, perfetto. Queste sono le giurie che vogliamo. Incredibili. Fabrizio, dalla provincia di Piacenza. visto che mi lega molto anche il primo progetto, perché sono anche nel settore dell'agricoltura e quindi la vedo una cosa molto educativa, e quindi penso che possa avere anche un'educazione in quei paesi, avvicinarsi al mondo anche dell'agricoltura, della produzione e tutto, quindi potrebbe essere una cosa che sia... Che le piace Fabrizio. Quindi secondo voto per Greenhouse, attenzione, però possiamo ancora votare per Sierra Park. Maria dalla provincia di Udine, quale progetto l'ha convinta di più, Maria? Mi ha convinto di più il progetto del Brasile. Anche lei? Perché sono molto sensibile ai problemi della crescita dei bambini, dell'alimentazione, lo ha capito già da prima il mio intervento, quindi sicuramente quello del Brasile. Mi dispiace per Perugia, ma io credo che poi in Italia possibilità alternative. Ma non si perde, per noi è importante far conoscere i progetti, quindi non è che il progetto che non vince viene mesmerizzato e tolto dalla piattaforma, assolutamente. Anzi, siamo sicuri che tutti quelli che ci ascoltano da Perugia avranno modo di fare una piccola donazione per Sierra Park, perché è una cosa che li riguarda da vicino. Però allora i nostri giurati, un applauso, hanno deciso che il progetto che li ha convinti di più è Greenhouse, quindi cari amici di Greenhouse, complimenti. Cristiano Campari, complimenti, grazie per essere stato con noi, ma grazie anche a Massimiliano Termite di Sierra Action Sport. Bisogna aspettare il 2020 perché lo skate diventi... l'attenzione nei confronti dello skate aumenti. Allora, noi ringraziamo anche la nostra giuria, Nicoletta, Fabrizio e Maria. Fabrizio resta in linea con noi perché fa il suo intervento, però dopo il traffico, e naturalmente vi ricordiamo che abbiamo giocato, ma insomma entrambi questi progetti, come diceva Carlo, meritano il vostro aiuto. Li trovate sulla piattaforma di Apple, la trovate le informazioni anche sul sito di Radio 24, alla pagina di Si può fare e alla pagina di Crowd Me Up. Che dire, basta, adesso c'è il traffico. Andiamo tra poco. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding in collaborazione con Apple. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo tanti messaggi per le nostre coppie che abbiamo proposto. Qualcuno dice anche Totò e Peppino. Guarda, molte del cinema. Addirittura anche nei Sandra Raimondo. Nei trending di Twitter adesso è salito Merkel e Hollande. Non so se intendono anche loro forse dirci che questa è una coppia. Una coppia. Allora abbiamo... Non so se vogliamo vedere ancora insieme o forse se vogliamo vedere che litighi. Abbiamo Fabrizio, il nostro giurato, che è rimasto in linea per fare il suo intervento dalla provincia di Piacenza. Fabrizio. Sì, volevo portare la mia esperienza. Mia suocera è stata per 20 anni cuoca in un piccolo asilo in località San Lazzaro, che è un borgo di Piacenza, sì. E si occupava anche dell'acquisto degli alimenti, e quindi andava dal macellaio, andava dal fruttivendolo, quindi a comprare il materiale per i bimbi. Quindi c'è stata un'evoluzione, diciamo, nel senso di questo, però mi raccontava che molti bambini che non mangiavano a casa riuscivano a mangiare all'asilo proprio per anche la cura e l'attenzione che c'aveva. Certo. Adesso ma è un po' quello che dicevo, sì, è un po' quello che dicevo anche io prima, anche se i tempi sono cambiati, non c'è più la mensa, la cuoca, come stava raccontando lei. Esatto. È quello che dicevo io prima, che sono felice che mia figlia mangia la mensa, perché mangia delle cose cucinate, tante verdure, cose che a casa non faremmo nemmeno. Però Fabrizio, mi tocca la curiosità, è stato fortunato allora con la suocera, perché cucina, esatto, bene. E ho avuto anche due figli che attualmente quando si trovano bene mangiano sempre bene a casa di mia suocera, che la salutiamo, che è nonna Carla. Nonna Carla, un valore aggiunto, la suocera cuoca. E va bene, erano altri tempi. Che anni erano questi in cui sua suocera lavorava in cucina a scuola? 30 anni fa. Erano un po' altri anni. Anche alcuni professori della Cattolica sono stati, sì, suoi piccoli, diciamo, sì, sì, Clienti. Beh, a questo punto io devo salutare per forza Carmela, la cuoca dell'asilo nido, che si parla certo. Ancora dove è stata Viola e dove poi andrà, credo, anche Olga, che... Io invece saluto nonna Carla, perché spero sì. Che se passo da San Lazzaro vado a mangiare lì, non ho dubbi. Sta emergendo un po' questa nostalgia per come erano gestite le mense un tempo, con il cuoco che stava lì, che faceva il minestrone. In genere poi il cuoco era uno imponente, no? Perché ci però ricordiamo dentro. Che e sono cose che evidentemente molti hanno anche richiesto, sì. Che adesso c'è anche tutta un'attenzione ai controlli, che ovviamente non si può sposare col fatto che una signora vada in macelleria e compri dei pezzi buoni di carne per i figli, nel senso per i bimbi dell'asilo. Se si vogliono tutti i controlli, all'orine, tutto sotto vuoto, è ovvio che non può essere una singola persona che si arrangia e in qualche modo cucina delle cose per gli studenti. Roberto da Genova, buongiorno. Buongiorno. Roberto? Pronto? Prego. Sì, si è addormentato. Sì, buongiorno. No. Volevo intervenire sul sì. Discorso delle mense. Sì. Guarda, io sarei favorevole a una soluzione che permettesse alle persone di potersi portare a scelta il cibo da casa, o se no a scelta usufruire della mensa, perché io chiamo da Genova, mia figlia quest'anno fa la prima media, però abbiamo avuto molti problemi nelle elementari con le stesse maestre che ai bambini durante le mense dicevano: non mangiate il pesce perché puzza, siamo a Genova, non mangiate la pasta al pesto perché è verde, il pesto nero e quindi cioè, noi poi siamo andati a lamentarci con il preside, che ci ha detto: fatemi avere per iscritto queste vostre lamentele, ma poi alla fine non si è risolto niente. Quindi c'è, cioè, dare la possibilità a chi vuole, anche perché con tutto quello sì. Che abbiamo pagato non mi sembra giusto poi ricevere dei servizi del genere. Quindi, giusto. Cioè, diciamo che se il pesto è nero e il pesce è marcio, comunque sia, al di là di portarsi le cose da casa, conviene modificare quella mensa, perché chi non può portarsi le cose da casa, sennò muore, rischia di rimanere muore. Fregato e mangiare delle cose cattivissime. Allora, grazie Roberto. Alessandra scrive una mail. Scrivendo: la mia solidarietà ai genitori Maurizi, cioè io e mia moglie, perché ho detto che noi siamo felici che Viola mangia alla mensa, che mangia meglio di quello che mangia a casa, perché sua figlia ha ritornato dalle vacanze natalizie e ha detto: meno male che si torna in mensa a scuola, perché evidentemente hanno lo stesso tipo di situazione anche da quelle parti, giusto. E allora abbiamo ancora un minuto. Intanto, se non chiama nessun altro, possiamo dire che il gioco di oggi lo ha vinto Gianluca da Milano. Assolutamente, con il nostro cervellone, con Cleopatra. Estratto. Antonio e Cleopatra. Antonio e Cleopatra come coppia multietnica. Multietnica da riproporre. Che va al di là delle differenze. In ossequio a questa settimana, nella quale ha dominato la notizia Pete Joly. Davide dalla provincia di Pavia, però hai 30 secondi, Cerco di essere velocissimo, sì, sono un esperto del settore mensa, ho fatto per 15 anni parte di una commissione mensa a scuola. Bravo. E andavo a scuola ad assaggiare i pasti, sì. La mensa era ottima, non abbiamo mai avuto un problema. Quello che mi domando è: per 15 anni mi hanno venduto l'idea che la mensa era un servizio scolastico, e c'era educazione alimentare, era un servizio necessario nella scuola delle 40 ore, c'era una dietista che diceva quali pasti dovevano mangiare, alla quale non si poteva dire assolutamente nulla, e c'erano delle regole igienico-sanitarie da seguire. Dopo 15 anni mi ritrovo che tutto questo non vale più niente, è carta straccia, e il problema grosso è che se gli utenti della mensa calano in maniera vistosa, poi il servizio mensa comune non sarà più in grado di offrirlo, se non a prezzi addirittura più alti. Per grazie cui Davide, il diritto agli dobbiamo altri. chiudere, c'è il giornale radio. Grazie a te. Grazie. Anche ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Paolo Corleoni, regia quest'oggi, ci sentiamo domani alle 8:30. Ciao a tutti. Ciao a tutti.